pallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle fumando in riposo, narcisetto arancino d'amor. Belle belle fumando in riposo, narcisetto arancino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piandrai farfalone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle fumando in riposo, narcisetto arancino d'amor. Delle belle fumando in riposo, narcisetto arancino d'amor. Ma perché mi può far pacco? Gran mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fanti schior. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non piandrai farfalone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle fumando in riposo, narcisetto arancino d'amor. Delle belle fumando in riposo, narcisetto arancino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militare.